è stato così lungo, perché se ne può parlare all'infinito. Quello di adesso penso che sia, come dire, più semplice da affrontare, però che metta in campo una serie di problemi molto vasti, che sono letterari, ma non solo letterari, anche problemi storici, anche problemi di rapporti tra un paese oggi molto presente sulla scena italiana come è la Romania e l'Italia. Nel romanzo di Gabriela D'Amesteanu si parla di un vecchio signore rumeno, naturalizzato apolide, che diventa italiano dopo la guerra, scienziato, biologo, e che ha una moglie tedesca, Krista, la quale ha vissuto l'epoca del nazismo, il periodo della guerra, il dopoguerra, e insieme se ne tornano in Romania, dove questo vecchio signore, siamo nel 1986, è invitato attraverso un'organizzazione internazionale a fare una conferenza, e va, e ovviamente il viaggio è un viaggio di ritorno a casa. Il problema è che questa casa c'è ancora, è ancora un luogo dove si può ritrovare dopo 50 anni un paesaggio, un ambiente umano, dei legami affettivi che hanno ancora un senso. Certamente il passato pesa, e la volontà di un ritorno a casa è comunque una verifica importante nella vita degli esuli. Voi sapete che il problema dell'esilio è un problema che attraversa la storia da sempre, è un problema enorme, l'Italia da Dante Alighieri in avanti, ma anche prima, insomma, è un paese di continui esili ed esiliati, è un tema fondamentale della storia contemporanea, perché gli esuli, i profughi, le displaced persons, gli apolidi, gli emigranti, sono una realtà che riguarda il mondo oggi enormemente, ma che riguarda anche da sempre l'Italia. In qualche modo qui si anticipa una storia che è più recente, quella di un emigrato da un altro paese in Italia, che si trova a vivere nella situazione italiana, in una situazione che è stata quella della guerra, del dopoguerra, gli esiti del fascismo, la ricostruzione, eccetera, eccetera, ma questo personaggio, essendo un personaggio di alta qualità scientifica e direi anche umana, ha trovato finalmente una collocazione in Italia, ha trovato una patria in Italia, è un scienziato di fama internazionale, ha degli allievi, vive preferibilmente in Lucania, e questo ci dà già una piccola spia, ci richiama a un discorso che riguarda l'Italia. Gabriela D'Amesteanu è nipote di Dinu D'Amesteanu, che è un grande personaggio della storia culturale italiana di questo dopoguerra, degli ultimi 50 anni, è morto nel 2004. Dinu ha fatto i grandi scavi di Siracusa, archeologo, grande archeologo, premiato dall'Accademia dei Lincei, premiato, ha una storia di altissimo profilo dal punto di vista scientifico, e ha dei meriti nei confronti della società italiana enormi. Ha vissuto soprattutto, perché dopo la Sicilia si è spostato in Sicilia, mi ricordo che raccontava sempre, l'ho conosciuto, quindi ne parlo, per questo anche il libro mi ha molto commosso, perché in qualche modo la figura di Dinu si trasferisce nella figura di Trajan, è un po' un c'è qualcosa, c'è l'Italia, c'è la Lucania, c'è lo scienziato che torna a casa, non so se Dinu è tornato a casa, sì, è tornato in Romania, a un certo punto è tornato anche lui. Quando faceva gli scavi in Sicilia raccontava sempre che lo chiamavano, non sapendo dire a D'Amesteanu, lo chiamavano Don Bastiano, e lui è rimasto lì, come tanto che racconta in un delizioso libro di interviste che gli fece Rocco Mazzarone, uno dei grandi meridionalisti lucani, racconta che a un certo punto arrivò in delegazione, credo a Butera, il paese dove stava facendo gli scavi, arrivò in delegazione il sindaco con altri importanti cittadini del posto per fargli gli auguri per la festa di San Sebastiano, e lui che con San Sebastiano non aveva nulla a che fare, però Don Bastiano in qualche modo accettò poi alla fine questi festeggiamenti, perché disse vabbè, infine perché no, insomma, Bastiano vale Dino, vale un altro nome. Vabbè, questo è un piccolo inserto, ma per dire anche che i legami tra questi due paesi sono legami in realtà forti, sono legami che non esistono da adesso, sono legami che hanno molti episodi importanti, sia ovviamente la Romania, c'è un rapporto con la Roma antica, con la storia antica d'Italia, ma anche rapporti non poi così lontani. Un altro grande studioso meridionalista, Ernesto De Martino, ha fatto uno dei grandi libri, Pianto rituale, mettendo a confronto il pianto rituale lucano con quello rumeno, con quello delle campagne rumene. Registrò un mare di dischi, di canti, di cose che anche questi, essendo vecchi, ho avuto modo di sentirli, perché ho conosciuto piuttosto bene anche Ernesto De Martino e in generale il giro dei meridionalisti da allora. Un titolo che viene due volte citato nel libro è Cristo si è fermato a Eboli, che è stato ovviamente un libro fondamentale per la storia del nostro paese e in particolare del nostro sud. Vabbè, arriviamo al romanzo. Il romanzo ritorna a casa, il problema è: c'è ancora una casa? I ritorni a casa di oggi sono ritorni a casa sicuramente molto traumatici, dopo molti anni, il viaggio di ritorno, che è ovviamente quello più canonico di tutti, è l'Odissea. E il libro parte non a caso da Ulisse, parte da una riflessione su questo che è la storia di un reduce, in qualche modo, che dopo la fine della guerra, dopo la fine della battaglia, deve riprendere la strada di casa. Ancora una piccola premessa prima di parlare del libro: noi della cultura rumena sappiamo pochissimo, perché siamo molto ignoranti. L'Italia è un paese estremamente provinciale, oggi abbiamo scoperto anche molto razzista, un paese che guarda dall'alto in basso, essendo un piccolo paese con una lingua che si parla solo in Italia, San Marino e nel Canton Ticino e basta, e crediamo di dar lezioni al mondo, crediamo di avere una unicità, un'importanza che in realtà non abbiamo più, abbiamo perso da moltissimo tempo. Siamo un fondo della provincia nel mondo contemporaneo e nonostante questo, appunto, ci permettiamo di essere così, di sentirsi superiori ad altri popoli, ad altre situazioni. La cultura romena, anche qui alcuni di questi nomi compaiono nel libro, giustamente vengono citati, ha dato per esempio Mircea Eliade, non so se lo pronunco bene, ha dato Ionesco, ha dato Sioran, ha dato anche uno scrittore che io ho anche tradotto in italiano, però dal francese, che era Panaiti Strati, che mi piaceva molto. C'è stato un periodo della mia vita in cui mi ha affascinato molto, proprio perché raccontava storie di viandanti, di vagabondi, di hobos all'americana, di irregolari che battono le strade del Mediterraneo. E in Strati, a suo tempo famosissimo, è anche l'autore del primo viaggio in Russia, lui idolatrato dalla cultura di sinistra perché era lo scrittore vagabondo, era, diceva Romain Rolland, che lo scoprì, l'Omero venditore di noccioline, un Omero che gira per l'area mediterranea come ambulante, diciamo, come venditore ambulante, come piccolo avventuriero. Bene, questo ritorno a casa è il tema del libro ritorno. L'incontro, se invece l'incontro si fosse chiamato ritorno, sarebbe stata un po' la stessa cosa, in qualche modo. Il ritorno è un ragionamento che questa coppia continua a fare nel corso del viaggio. È un viaggio d'andata e la permanenza in Romania, nella Romania di Ceausescu, siamo appunto prima della caduta del regime, molto prima, e non molto prima, 2-3 anni, 4 anni prima, e il ritorno dopo a casa, il ritorno a casa che è un ritorno anche lucano, e un confronto di questa vecchia coppia con una giovane coppia, un allievo di Manu Traian, il protagonista, che si sposa con un'altra allieva. Insomma, c'è un arco narrativo molto, in sostanza molto semplice, però molto ardito, perché la letteratura è letteratura si fa con le parole, si fa con le costruzioni, si fa con le strutture narrative, non è andare, no? La letteratura contemporanea ci ha abituato, i bestseller sfornati 300 al giorno, tutti con la scritta bestseller sopra, poi ovviamente sono pochi quelli che lo diventano veramente, no? Ci ha abituato a una scrittura facile, a una scrittura compiacente, a una scrittura da fiction, non da romanzo, non da narrativa seria, e ci ammannisce delle storie molto semplici, più o meno con alcuni schemi che ritornano continuamente, con delle strutture narrative molto facili che si rifanno non tanto agli esempi dell'alta letteratura, ma semplicemente ai manuali di sceneggiatura degli autori televisivi americani. La gran parte dei romanzi contemporanei che escono vengono costruiti a volte dalle case editrici medesime, dagli editor delle case editrici, ragionando su questi manuali, che sono ovviamente un materiale preziosissimo per capire la capacità di alienazione della cultura contemporanea e i meccanismi quasi pavloviani sui quali si muove, no, il prodotto di letterario di facile consumo e di facile smercio. Qui no, qui siamo nella letteratura. C'è un primo capitolo, per esempio, a mio parere straordinario, un ingresso nel libro, che è una serie di incubi ricorrenti, il cui tema è per l'appunto questo del ritorno, questo dello spaesamento, del non essere, non avere più un terreno, non avere più una casa, incubi ricorrenti che sembrano qui molto cinematografici, ma nel senso alto della parola, non nel senso, no, proprio è come un montaggio di sogni e di risvegli che ci introduce a questo viaggio, un prologo. Poi c'è il viaggio, c'è il confronto all'interno di questa coppia, una vecchia coppia di caratteri molto diversi, lui da lei, personaggi complessi, soprattutto lei, e anche esigenti, che chiedono, che vogliono un'attenzione, che impongono il loro ragionamento sul passato, sul presente, su tutto. E quindi c'è questo viaggio in questa macchina guidata dalla donna verso questo paese che una volta è stato il paese del protagonista. C'è il ritorno, e il ritorno, come potete immaginare, è punteggiato da, anche questo è un procedimento in qualche modo cinematografico, un po' un montaggio alternato, no? È punteggiato dai resoconti delle spie, dal lavoro della polizia segreta rumena, la polizia segreta di Ceaușescu, che infila continuamente dei suoi informatori nell'arco delle persone che Manu Traian deve vedere o vedrà nel paese natale, dove torna a vedere la famiglia. Insomma, c'è un continuo, ci sono le due versioni, più versioni. A un certo punto nella seconda parte il romanzo diventa decisamente polifonico, no? Con i documenti che sono le relazioni delle spie, con i dialoghi tra la polizia segreta e le spie che mette, gli informatori che mette attorno a questo scienziato che torna al suo paese, e poi ci sono le voci dei suoi parenti. C'è lo spaesamento un po' nelle due direzioni, perché sono persone che a volte hanno un ricordo specifico del personaggio, perché hanno avuto con lui dei rapporti molto intensi, una storia d'amore, i parenti, i fratelli, una madre morta che è continuamente anche questa evocata, perché è un'assenza, è anche quella la madre come terra, come nutrice, come base dell'esistenza di tutti, e che non c'è più, anche lei non c'è più, anche questo ritorno a casa è anche un ritorno verso le tombe dei propri antenati. E poi ci sono i giovani, ci sono dei personaggi di giovani che ruotano, e che sono questi giovani che in quegli anni, prima della caduta del regime, come dire, vivono la loro gioventù in una situazione molto oppressiva, molto chiusa, e si liberano come possono, per esempio nell'alcol. Uno di loro muore, precipita da un balcone durante uno dei momenti, diciamo, di questo che ruotano intorno a questo ritorno. Il personaggio di Daniel, che è molto bello, c'è un cugino lontanissimo, un po' faccendiere, quello che risolve tutti i problemi, quello che in tutte le situazioni trova la chiave giusta per adattare alla realtà rumena di oggi questo personaggio, che è stato rumeno tanti anni fa e quindi non capisce come funzionano le cose sotto un regime come quello di Ceausescu. Insomma, c'è una polifonia che dà un'idea del contesto in cui ci si ritrova ritornando dopo tanti anni, dopo decenni, nella propria patria, in più in una patria retta da una dittatura particolarmente oppressiva e onnipresente come quella di Ceausescu. E poi c'è il ritorno di qua, questo ritorno a casa, questo ritorno verso Itaca è in qualche modo, non dico un fallimento, ma certamente è una presa d'atto che il tempo è passato, che il mondo è cambiato e che no, c'è poco da tirarne fuori. C'è anche una certa voglia di questo ritorno indietro, perché è più patria l'Italia di quanto non lo sia a questo punto la Romania. E quindi questo rapporto finale con questi allievi, queste nozze che sono anche un segno di continuazione, un segno di no, una nuova coppia che si forma, una nuova famiglia che si forma, viste da questi due vecchi coniugi un po' petulanti, un po' irritabili e però legatissimi ovviamente tra di loro da una storia che è la storia della Romania, la storia dell'Italia e la storia dell'Europa, che è la storia di un mondo dove gli esuli sono una parte estremamente consistente dell'umanità. Insomma, questo che mi pare sia il tema centrale del libro, il ritorno a casa dell'esule e la difficoltà del ritrovare delle radici che sono state tagliate tantissimi, tantissimi anni prima, il confronto tra due culture, tra due lingue, tra due mondi, che è uno dei temi dominanti, credo, della realtà contemporanea, non solo un problema della traduzione, no? È un problema che è molto forte nel mondo contemporaneo. Noi viviamo circondati, Roma, si va in giro per strada, si sentono molte lingue oramai, molte lingue di cui non capiamo assolutamente un accidente, perché non sono il francese, l'inglese o lo spagnolo, che sono lingue in qualche modo accessibili, tradizionali per la nostra cultura, ma sono lingue africane, lingue asiatiche, di cui ignoriamo letteralmente tutto. Quindi questo spaesamento è uno spaesamento che ci riguarda un po' tutti. Io adesso, dopo questa presentazione molto confusa, scusatemi, ma vorrei proprio, come dire, togliermi di mezzo, vorrei che Gabriela ci raccontasse le ragioni di questo romanzo e l'importanza del romanzo siamo noi a doverla dire. Gabriella è una scrittrice molto nota in Europa, questo è il suo primo romanzo tradotto in italiano, si è data lode a Ginevra Bompiani e alla casa editrice Nottetempo, che osano ancora fare scoperte ardue, non scoperte facili, non il bestseller, ma i veri scrittori, i grandi scrittori, che nell'Europa contemporanea sono molto spesso grandi scrittrici, a volte perfino coronate dal Nobel, ma che sono personaggi che chi sapeva niente di Herta Müller fino al Nobel, no? In Italia aveva pubblicato un piccolo libro, una casa editrice trentina o veneta, insomma molto in provincia, molto lontano, no? È una realtà che noi dobbiamo imparare a conoscere, noi dobbiamo aprirci nei confronti di queste culture per abbattere le barriere e per abituarci a una società certamente multietnica oggi, domani e dopodomani. Questo è il nostro destino, vale per i rumeni, vale per gli africani, vale per noi, vale per tutti. Per dire l'importanza anche delle quantità di cose che mette in ballo questo romanzo. Grazie. Aș vrea în primul rând să mulțumesc Ginevrei Bompiani și editurii Nottetempo, care a investit în mine cu apariția acestei cărți, la care din întâmplare și eu țin foarte mult, chiar dacă ea acum apare pentru prima dată într-o țară occidentală, într-o limbă occidentală. Ediția e adevărat, e din 2007, nu sunt decât 3 ani, însă ea nu a mai apărut decât în Est, în Ungaria și în Bulgaria. În primul luogo vorrei ringraziare Ginevra Bompiani e la casa editrice Nottetempo per aver investito in me, anche perché questo è un libro a cui io personalmente tengo molto, anche se è la prima volta che è la prima volta che viene pubblicato in una lingua occidentale, perché finora è comparso solo, essendo stato pubblicato per la prima volta nel 2007 nella forma che è stata tradotta, è stato pubblicato finora solo in Bulgaria e in Ungheria. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră care mi-ați făcut cea mai aprofundată lectură cu toate nuanțele acestei lecturi, nu foarte simple atunci când traversezi într-adevăr, cum ați spus, două culturi și două lumi. Vorrei anche ringraziare Gorfedo Fofi per la presentazione estremamente approfondita e per la lettura evidentemente altrettanto approfondita che ha fatto di questo libro attraverso tutta questa serie di presentazioni che toccano argomenti molto importanti. Mulțumesc dumneavoastră care ați venit aici să ascultați. Vorrei ringraziare ovviamente anche il pubblico che è venuto qui ad ascoltarmi. Nu în ultimul rând, traducătorului meu, Roberto Merlo. E in ultimo luogo anche il mio traduttore, Roberto Merlo. Și aș vrea să amintesc și pe Anita Bernachia, care este aici de față și care și ea a tradus capitole din alte cărți ale mele, din păcate încă fără neapărut încă. E vorrei ricordare anche Anita Natasha Bernacchia che si trova qua fra il pubblico, che ha tradotto alcuni capitoli di altri miei libri che per ora sono ancora non pubblicati. Acum am să mă silesc să răspund. Quindi adesso mi preparo anche a rispondere alla domanda che mi è stata fatta. Cartea a fost a început să devină o obsesia mea după mai mulți ani. În orice caz, s-a concretizat în anul 85, într-adevăr, an când se petrece și acțiunea cărții. Questo libro è diventato a un certo punto quasi una mia ossessione che si è concretizzata nell'anno 1985, che è anche l'anno in effetti vicino al quale si a luogo l'azione del romanzo. Care este locul de fapt al unchiului meu din Oada Meșteanu în inspirația acestei cărți? Qual è il ruolo di mio zio di Oada Meșteanu nell'ispirazione di questo romanzo, nella creazione di questo romanzo? În primul rând este tema emigrației, care era o temă relativ rară în acea perioadă în România. In primo luogo, ovviamente, riguarda il tema dell'emigrazione, perché e che all'epoca era un tema toccato alquanto raramente in Romania. Însă unchiul meu Dinu, pentru familia noastră care era foarte mare, a constituit un mit pentru noi care crescusem copii în regimul comunist, fără să-l cunoaștem și care nici nu aveam multă vreme, nu am avut șansa să-l întâlnim. El era, deci, o figură figură mitică. Per noi lo zio Dinu era quasi un mito, per noi bambini componenti di una famiglia molto ampia, che eravamo cresciuti sotto il comunismo e che non avevamo mai potuto conoscerlo, era diventato appunto una figura mitica. Pe urmă el a început să vină în România și nu a venit odată, a venit de mai multe ori, a venit și după 90 și ceea ce am putut vedea era modul în care funcționa interesul față de el. Era un interes fără îndoială, deseori dirijat de, cum să spun, fie obiective sociale ale indivizilor care așteptau un ajutor, fie un interes sincer al tinerilor care așteptau un sprijin, la fel ca Daniel din romanul meu. Era și un interes material pe care l-am putea înțelege pentru că era o țară care trăia în mizerie. Ad un certo punto lo zio Dino ha cominciato a venire anche lui in Romania, non una sola volta come succede nel romanzo, ma anzi più volte, anche dopo il 1989. E così ho avuto l'occasione di osservare come potessero funzionare le dinamiche dell'interesse nei suoi confronti. In primo luogo c'era l'interesse delle persone che cercavano in lui un aiuto, un supporto materiale, ma c'era anche l'interesse sincero dei giovani che erano incuriositi da questa figura e che cercavano appunto in lui la figura di un supporto più intellettuale, più spirituale. Comunque ho notato che si trattava spesso di un interesse orientato in qualche modo, guidato in qualche modo. Cartea pare mai autobiografica decât este de fapt. Il libro in effetti sembra più autobiografico di quanto non sia in realtà. Pentru că deja mi s-a mai pus această întrebare chiar de când am venit, am avut timp să mă gândesc și mi-am dat seama că eu în genere împrumut uneori trăsături din identitatea mea sau din identitatea unor persoane pe care le cunosc, însă niciodată împrumut personajelor mele, însă niciodată povestea pe care o povestesc nu este povestea lor. Povestea îmi aparține mie. Quando sono arrivata mi è stata fatta questa domanda, mi è stata posta la questione relativamente al rapporto fra il protagonista del romanzo e la figura di mio zio Dino Domenichteanu, e così ho avuto anche modo di riflettere io stessa su questa cosa. E in effetti spesso prendo prestito dei tratti della mia stessa personalità o di persone che conosco per i personaggi dei miei romanzi, ma mai la loro storia. La storia dei personaggi dei miei romanzi appartiene a me. Din întâmplare, această istorie, din această carte, nici măcar linia esențială nu am imaginat-o. Un prieten mi-a povestit în acea perioadă, anii 85, o întâmplare din Rusia, din Uniunea Sovietică atunci. Casualmente, tuttavia, la linea principale della narrazione di questo romanzo non me la sono inventata. In quegli anni un mio amico mi ha raccontato una storia che però aveva luogo in Russia, nell'Unione Sovietica in quegli anni. Un de asemenea personaj care își făcuse carieră în Occident plecând din Rusia, se întoarce în Rusia după foarte mulți ani, de fapt spun Rusia, dar de fapt era mereu Uniunea Sovietică, și întâlnește alte persoane decât cele pe care le cunoștea, fiindcă vechea lui familie murise, iar aceștia au spus că sunt descendenții lor. In effetti era la storia di un personaggio che aveva fatto una brillante carriera in Occidente, che era tornato nella Russia del tempo. Io dico sempre Russia, ma ovviamente si tratta di Unione Sovietica. Era la storia di questo personaggio che tornava in un paese in cui tutti i suoi parenti erano morti, e aveva incontrato delle persone che sostenevano di essere i discendenti di quelle persone. Și atunci el nu reușește să aibă contacte reale sufletești cu aceștia, se întoarce și la sfârșit, la fel ca personajul meu, se întreabă: oare eu mi-am întâlnit adevărata familie sau am întâlnit niște necunoscuți pe care i-a pregătit poliția secretă rusească, sovietică, să mă spioneze. E così come il personaggio principale del mio romanzo, anche questa persona esistita nella realtà, tornando indietro, non era riuscita a stabilire un contatto reale con queste persone che aveva incontrato in Russia, e tornando indietro comincia a chiedersi se ha incontrato realmente la propria famiglia, i discendenti dei propri familiari, oppure delle persone appositamente istruite dai servizi segreti. Și vedeți, povestea până la un punct se recunoaște, numai că eu am dat viață personajelor și mai mult decât atât, în cartea mea este clar că e familia cea care îl așteaptă, este clar că unii așteaptă daruri materiale, este clar că unii îl așteaptă idealist pentru că e un model pentru ei. Aceste lucruri le-am construit eu. La storia che vi ho appena raccontato è riconoscibile anche nel mio romanzo, tuttavia io ho conferito ai miei personaggi una vita leggermente diversa. Alcuni, in realtà il personaggio che torna in patria incontra realmente i suoi familiari. Alcuni lo aspettano con la speranza di doni, di un conforto materiale, altri invece lo attendono in una maniera più idealista, perché rappresenta per loro un modello. Și de asemenea, ceea ce am adus nou sunt documentele poliției secrete, documentele securității, cele pe care noi le-am putut vedea, am început să le vedem în acești ani. Quello che ho aggiunto sono anche i documenti della polizia politica, della Securitate, sono, diciamo, che si ispirano ai documenti che abbiamo visto, che abbiamo cominciato in Romania a poter vedere negli anni successivi al 1989. Ca să sfârșesc cu partea mea, de asemenea este cumva parțial inventată, nu parțial, ci total inventată de mine, povestea Cristei, povestea soției germane a lui Traian Manu, a personajului meu, și asta pentru că ea trăiește în timpul nazismului, dar și eu știam ce înseamnă să trăiești într-o dictatură. Un elemento che invece appartiene totalmente a me è la storia di Krista, della moglie tedesca del protagonista, che è vissuta durante il nazismo, perché anch'io so cosa vuol dire aver vissuto sotto una dittatura. Io vorrei leggervi non un brano di Gabriele, ma all'inizio del libro c'è una citazione stupenda di Mircea Eliade che dà il tono al libro, è il vero introibo, la vera introduzione e l'apertura. Da qui si capisce, credo, tutto, e anche si capisce l'altezza del progetto che ha mosso Gabriele. Ogni esiliato è un Ulisse in cammino verso Itaca, ogni esistenza reale riproduce l'Odissea, la strada verso Itaca, verso il centro. Sapevo tutto questo da molto tempo. Ciò che scopro all'improvviso è che è offerta l'opportunità di diventare un novello Ulisse a qualunque esiliato, proprio perché è stato condannato dagli dèi, vale a dire dalle potenze che decidono dei destini storici, terrestri. Ma per rendersene conto, l'esiliato deve essere capace di penetrare il senso nascosto del suo errare e di intenderlo con una lunga serie di prove iniziatiche volute dagli dèi e come altrettanti ostacoli sulla strada che lo riporta verso casa, verso il centro. Questo significa vedere dei segni, dei significati nascosti, dei simboli nelle sofferenze, nelle depressioni, negli inaridimenti di tutti i giorni. Vederli e leggerli anche se non ci sono. Se li si vede, si può costruire una struttura e leggere anche un messaggio nello scorrere amorfo delle cose e nel flusso monotono dei fatti storici. Mi sembra un brano straordinario per descrivere la condizione umana di gran parte dell'umanità di questi giorni. Il tema dell'esilio così forte. Prima vi dicevo dell'inizio del libro, no? Questi incubi. Questi incubi sono sempre incubi da emigrato. In treno lo svegliano i documenti e lui i documenti non ce l'ha. È un continuo ritornare di questa situazione. Il non essere all'altezza, ma vissuto come quasi come senso di colpa, no? Perché viene imposto di sentirlo come senso di colpa. L'Apolide, Dinu per esempio, è stato per tanti anni, credo fino al 50, intorno al 50, era un Apolide in Italia. Pensate cos'era essere un Apolide dopo guerra, in guerra e dopo guerra, salvato soltanto dal fatto che era un grandissimo archeologo. Una cosa che non ho detto, che è significativa, perché in qualche modo c'è nella figura di Dinu, questa era molto presente. Dinu è uno dei grandi inventori dell'archeologia aerea. Sapete che cos'è l'archeologia aerea? Giravano con degli elicotteri, quando ancora il paesaggio c'era, e con una certa luce radente fotografavano il territorio e con delle elaborazioni poi vedevano dove c'erano dei quadrati, dei tondi, dei picchi, delle cose, e individuavano dove c'erano dei resti, dove c'erano delle tracce del passato, dove c'erano state degli insediamenti umani storici ai tempi dei Greci, ai tempi dei Romani. Il museo di Policoro, intitolato a Dino Demestiano, è uno dei più bei musei della Magna Grecia, insomma, dove tutto il materiale in qualche modo che lui ha ritrovato. Però il lavoro dell'archeologo è un lavoro che va sottoterra, va scavo, cioè da un lato abbiamo quello che guarda dall'alto e vede le cose un po' da lontano, dall'altro quello che deve, per trovare le cose, deve penetrare nelle viscere della terra. Il romanzo in qualche modo deve continuamente confrontarsi con questi due momenti, vedere le cose un po' con l'occhio del poi, con l'occhio di adesso, no? E poi nello stesso tempo però vederle come nel momento in cui avvengono e nel momento in cui i personaggi, come dire, hanno la necessità o hanno il problema di scavare dentro di sé, scavare nelle memorie, scavare nei sentimenti del passato, scavare nel passato. C'è anche un momento del romanzo in cui è una sorta di viaggio nell'Ade, di viaggio nel mondo dei morti, come c'è nelle mitologie del mondo antico, come è presente in qualche modo anche nell'Odissea. Questo tema dell'esilio è il tema, credo, è un tema universale, enorme, di sempre, ma oggi di nuovo molto forte. Per questo, un po' su questo tema dell'esilio, vorrei che tu ci dicessi. Eu am fost foarte, foarte bucuroasă atunci când am descoperit că visul exilatului este acesta din cartea mea, pentru că nu avusesem decât o relatare a unei singure persoane care făcuse acest vis. Și cred că era unchiul meu. Dar... pe urmă am descoperit, mi s-a povestit și în Franța, mi l-a povestit o foarte cunoscută jurnalistă română, Monica Lovinescu, și pe urmă am întâlnit mai mulți. Deci ei, într-adevăr, au variante diferite ale acestui vis. Din punctul acesta... Sono stata molto colpita, anche insomma, piacevolmente stupita di averlo messo bene nel mio romanzo, dal sogno dell'esiliato, perché... ad un certo punto, quando l'avevo pensato, lo conoscevo solo attraverso i racconti di una sola persona. Successivamente poi ho scoperto, parlando con altri esuli in Francia ad esempio, ma anche in altri posti, che in realtà tutti loro avevano vissuto l'esperienza di questo sogno dell'esule in infinite varianti. Și din punctul acesta de vedere, pentru mine capitolul acesta cu visul, deși era schițat de mult, a fost cel pe care l-am lucrat cel mai mult, era într-un fel aproape de poezie și în același timp, tot înaintând în el, mi-am dat seama că am atins tema morții, care există așa cum cu atâta subtilitate ați văzut, există și ea în această carte. È per questo che questo primo capitolo sul sogno, nonostante fosse diciamo, abbozzato da molto tempo, alla fine poi è stato quello su cui ho lavorato più a lungo, proprio per questa scoperta che ho fatto. È un capitolo a cui tenevo molto, a cui ho lavorato molto, perché è stato quasi per me come una sorta di poesia, di poema, e man mano che andavo avanti lavorando a questo capitolo, a questo tema dell'incubo, dell'esule, mi sono accorta che stavo andando a toccare il tema della morte, come ha notato con molto acume anche Goffredo Fofi. După ce alergă foarte mult, se ferește de soldați, alergă în trenuri, e hăituit de vameș, personajul meu, în coșmarul care îi se repetă, ajunge acasă la el și nu-l mai recunoaște nimeni, nici mama sa. Il personaggio del mio romanzo, dopo essere scappato dai soldati, dai cani, dai doganieri che lo cercano, alla fine riesce ad arrivare nella casa natale, dove però neppure la madre riesce più a riconoscerlo. Și aici este într-adevăr întâlnirea cu tema morții. De ce? Pentru că, pe de o parte, exilatul când se întoarce, mai ales cel care se întoarce într-o țară cu dictatură, într-o țară unde nu se poate întoarce decât după mulți ani, o parte din cei pe care așteaptă să-i vadă au murit între timp. E qua mi sono resa conto che andavo incontro al tema della morte, soprattutto dal momento che in un paese, soprattutto in una situazione come era quella della Romania, in un paese sotto la dittatura, non ci si poteva tornare che dopo molti anni, dopo essere stati partiti, dopo essersene andati, quando effettivamente molte delle persone che si erano conosciute erano morte nel frattempo. Pe d'altra parte, exilatul însuși se întâlnește cu propria sa moarte întorcându-se. De ce? Pentru că cel care pleacă și emigrează definitiv, într-un fel moare, adică renunță sau se abandonează o identitate. El pleacă într-o altă lume și trebuie să se nască din nou acolo. Nello stesso tempo però un esule si incontra in queste situazioni anche con la propria stessa morte, perché ovviamente abbandonando un paese, una lingua, una famiglia, deve abbandonare anche un'identità, andando a vivere, creando una nuova vita in un nuovo paese, deve anche rinascere nuovamente. Și există aceste semnale, ca să spun, greu de perceput pentru un lector italian, poate mai ușor decât un cititor român, în acest vis, la sfârșit, când el este gonit, practic, de familia din vis, care nu-l recunoaște, se spune că trupul lui nu lasă umbră și în jurul lui e mereu o albină, simbolul, cum am vorbit noi, simbolul sufletului care pleacă. In quella scena, quella finale dell'incontro con la famiglia, la madre che non lo riconosce, ci sono alcuni segnali che ad un lettore romeno sono probabilmente più familiari che a un pubblico italiano, che sono ad esempio il fatto che il corpo di colui che sogna non getta ombra, il fatto che ci sia sempre un'ape che gli gira intorno, che è il simbolo dell'anima. Io am fost mirata când am văzut că și tineri care au plecat, să spunem, acum 10 ani, acum 15 ani după Revoluție din România, mi-au povestit ei sau prietenilor ce greu mai fac contact cu vechilor prieteni. Nu-și mai găsesc și ei se simt între două lumi, neaparținând încă, nu-și mai recunosc prietenii, fiecare și-a făcut o altă viață. Deci ceva din povestea aceasta și în libertate se repetă, dar firește la o scară mai puțin dramatică. Sono stata molto stupita quando ho constatato, parlando anche con persone più giovani che sono partite dalla Romania 10 o 15 anni fa, che anche loro non, molto difficilmente riescono a ricostruire un contatto con gli amici lasciati in Romania. Anche loro si trovano, nonostante siano partiti da meno tempo e siano partiti da una situazione diversa, quella del regime di Ceaușescu, non riescono a ritrovarsi là, dopo essersi costruiti un'altra identità, un'altra vita, si trovano come sospesi fra due mondi. Quindi, diciamo, questo tipo di meccanismo si ripete in condizioni diverse, evidentemente però a una scala oggigiorno molto più ridotta. Se ci sono domande, alzate la mano e parlate. Un secondo solo, ancora gliene faccio una io per completare il quadro e anche per aprire una possibili interventi poi dopo. A parte che volevo citare un'altra citazione bellissima che c'è nel libro, è di Cioran, non so come lo pronunciate voi, Cioran, che dice, parlando della Romania, il paese che è stato nostro e non è più di nessuno. Quello che vorrei, ecco, oggi il paese è tornato a essere di qualcuno, punto interrogativo, ecco. La seconda cosa è il confronto tra Italia e Romania. A questo punto, sempre pensando al cinema, è come io mi sono immaginato il viaggio in una... Cioè, no, non il viaggio è la fase intermedia, Però l'Italia è a colori, viene detto a un certo punto, la Romania è in bianco e nero e l'Italia è a colori. Ecco, ma effettivamente in modo quasi cinematografico è come se ci fosse un'idea piuttosto idealizzata dell'Italia, no? Molto idealizzata, e molto, ma di colori, come dire, delicati, non l'Italia che conosciamo, che è invece un technicolor sfacciato e caotico. E invece appunto la Romania una landa monotona in bianco e nero. E questo però in un certo tipo di cinema, per esempio negli anni 60, Bergman e altri, era sempre l'ingresso nel mondo dei morti, per l'appunto, quando dalla vita si passava all'aldilà si tornava al bianco e nero. Ecco, su questo qualche riflessione mi farebbe. Am să răspund la a doua întrebare, că prima a cui e România azi e mai complicată. Quindi vorrei rispondere prima alla seconda domanda, perché la prima, se la Romania oggi è tornata a essere di qualcuno, è più difficile rispondere. In carte Italia è văzută cu ochii lui Traian și el iubește Italia. Deci e văzută cu ochii celui care și-a creat acolo o situație, și-a creat o viață și deci, într-adevăr, e o privire idealizată. Certo, l'Italia nel libro è vista con gli occhi di Traian, con gli occhi di colui che ama quel paese in cui si è rifatto una vita. Per cui, certo, in un certo punto si tratta di un'immagine idealizzata. Dar este o idealizare făcută prin sentiment. Da, este ma è un'idealizzazione che si costruisce attraverso il sentimento. El înțelege mai bine Italia, el nu înțelege nimic din România, din ce îi se întâmplă. Lui capisce meglio l'Italia, non riesce a comprendere nulla di quello che gli succede in Romania quando ritorna. Acum trebuie să recunosc că, de fapt, din nou cu foarte multă profunzime, mi-ați spus ceva despre mine în timp ce ați sezizat aceste culori. Devo riconoscere nello stesso tempo che con grande acume è riuscito a dire qualcosa anche su di me quando ho notato questo discorso sui colori. Eu am prima țară pe care am văzut-o, prima țară din Occident pe care am văzut-o călătorind târziu, a fost Italia. Și șocul meu a fost exact cel al culorilor. Mi s-a părut un univers colorat și veneam dintr-un univers alb-negru. Il primo paese che io ho visitato quando ho viaggiato per la prima volta piuttosto tardi nella mia vita fuori dai confini della Romania è stato proprio l'Italia, e mi ricordo che per me appunto lo shock è stato quello del protagonista del mio romanzo, non sono stati i colori, l'Italia era un paese colorato mentre io provenivo da un paese in bianco e nero. Și în același timp tot acum mi-am dat seama că eu am văzut tot timpul Italia colorată și pentru că o vedeam tot timpul prin ochii unchiului meu, dar și prin dragostea pe care o purtam eu lui. Era Italia lui pe care o idealiza el. Mi rendo conto proprio adesso che in effetti io ho sempre visto l'Italia in questo modo molto idealizzato proprio per l'amore che portavo a mio zio. L'Italia che vedevo io era quella idealizzata attraverso l'affetto che portavo a lui. Și din nou o mărturisire datorată acestei întrebări, eu am descoperit cu multă uimire când am venit după moartea lui, cred că era 2006, și când Italia continuă să fie aceeași țară fascinantă, nu mai avea aceeași căldură pentru mine. È una confessione personale che devo fare, che in effetti quando sono tornata in Italia per la prima volta dopo la morte di mio zio, credo che fosse il 2006, devo dire che continuava ad essere un paese affascinante, ma non aveva più il calore che avevo percepito prima. Și atunci, pentru prima dată, eu am văzut și lucruri care erau alb-negru în Italia, foarte în fugă, dar încă nu pot să spun că văd Italia, că nimeni când vine puțin nu vede mult. Dar, într-adevăr, culorile au fost foarte mișcate de afectivitate. E devo dire che allora, in effetti, ho osservato anche le cose in bianco e nero che ci sono in Italia. Certo, in maniera piuttosto fugace, e non posso dire di aver visto veramente l'Italia perché ci sono venuta poco, però devo confessare che in effetti la visione dei colori è molto legata, la mia visione, questa visione dei colori è molto legata all'affettività. Dopo risponderò anche alla prima domanda che mi ha fatto. Buonasera, io no, volevo, quest'ultimo intervento dell'autrice è entrato nel merito di quello della sostanza della mia domanda, insomma, e volevo porre una domanda all'autrice perché vedevo questa contraddizione proprio tra il concetto di esilio che è stato sollevato, l'esilio, e il fatto che l'autore poi invece non si ritrova più a casa sua, nella sua terra, e ritorna al paese che l'ha ospitato e che ha vissuto, dove ha vissuto, l'Italia. Ora questo mette in discussione, non so, forse anche la natura stessa dell'esperienza vissuta dal personaggio. Nel senso che l'esilio presuppone proprio una continuazione della straniazione, una continuazione per tutta la vita, un non riconoscimento della cultura altra, o comunque della non assimilazione completa, del non adattamento completo. Pensiamo per esempio a Solzhenitsyn. Solzhenitsyn è tornato nella sua terra, insomma, natia, quella è un'esperienza di esilio, ecco. In questo caso non ho letto il libro, però mi sembrava di cogliere questa contraddizione tra parlare di esilio e il ritorno del personaggio in Italia. Grazie. Eu cred că nu există un exilat în genere, ci există mai multe cazuri. Io credo in effetti che non si possa parlare di un esule come di una categoria, però come dell'esilio in tutta la sua casistica. Sigur că tot ce scriu eu e o supoziție, întrucât eu nu am cunoscut această condiție din interior. Certo, tutto quello che ho scritto io è frutto di supposizione e di immaginazione perché non ho vissuto realmente questa condizione. Fără îndoială că există o anume parte a celor exil și emigrație nu e același lucru, ați folosit cuvântul exil, dar acum cel mai des se vorbește de emigrație. Certamente però è anche vero che esilio ed emigrazione sono due cose diverse. Oggigiorno si parla molto, molto più concretamente di emigrazione che non di esilio. Dar io să vorbesc despre ele ca și când ar fi același lucru, deși suntem de acord că nu e același lucru. Io adesso parlerò di queste due condizioni come se fossero la stessa cosa, anche se siamo d'accordo che non sono esattamente la stessa cosa. Io cred că unii dintre cei care pleacă foarte devreme. Io credo che alcuni di coloro che lasciano il proprio paese molto presto și care trăiesc foarte mult în țara aceea e che vivono molto in quel paese ajung care îi primește. Sì, nel paese che li accoglie. Ajung, eu cred, quasi adaptați. Io credo che si adattino in maniera sostanziale, diventino quasi assimilati. Un tuo mio esempio era italiano. Mio zio, ad esempio, era italiano. Credo. Da. Da. Sì, el, sicuramente sì. El ha ales in mai multe momente când i s-a propus și chiar când era foarte târziu, foarte... el ar fi ales Italia. Lui anzi ha anche scelto in diversi momenti della sua vita l'Italia. Quando gli sono state fatte diverse proposte, lui ha scelto coscientemente l'Italia. Vorbea deja româna cu accent și cu cuvinte amestecate. Parlava già romeno con un forte accento italiano, anche usando molte parole italiane. Și a spus de mai multe ori, l-am auzit, eu sunt italian. E diceva spesso, l'ho sentito io anche di persona molte volte, dire che io sono italiano. Dar nu îi trecuse această nostalgie. Però tuttavia questa nostalgia ancora non gli era passata. Deci el venea în România și din cauze diverse niciodată nu era mulțumit de ce vedea. Lui è tornato in Romania diverse volte e ogni volta, per diversi motivi, nessuna volta era completamente contento, soddisfatto di quello che vedeva. Era foarte iubit de familia noastră și el știa asta. Lui era molto amato dalla nostra famiglia e lo sapeva bene. Și venea în fiecare an și totuși aceasta nu însemna niciodată că ar fi stat mai mult. E veniva ogni anno, però questo non significava che avrebbe voluto restare di più. Și eu am văzut nenumărate variante pe această temă, putem vorbi. Mi-ar place să scriu și altă carte pe tema asta, dar altfel. Sì, e di questo tema si potrebbe parlare all'infinito, perché ho visto io stessa personalmente molte varianti di questa storia e si potrebbe, vorrei anche scrivere un libro su questa cosa, però per parlarne in un altro modo. M-ați întrebat, citatul acela era foarte frumos din Cioran, într-adevăr. Eu l-am descoperit foarte, destul de târziu, tot prin anii aceia când. Și atunci mi se părea îngrozitor de dureros, mai ales partea a doua din țara care a fost a noastră și nu mai e a nimănui. E ca o poezie. Sì, a proposito della prima domanda che mi aveva fatto Goffredo Fofi relativamente alla citazione di Cioran. Sì, io questa citazione di Cioran, il paese che è stato nostro e che non è più di nessuno, l'ho scoperta relativamente tardi, sempre più o meno nel periodo in cui ho scritto questo libro, la metà degli anni Ottanta, e allora mi sembrava terribilmente doloroso, soprattutto nella sua seconda parte, che non è più di nessuno. Cred che citatul acesta, din păcate, poate nici nu știu despre partea întâia ce să spun din țara care a fost a noastră, dar partea a doua de care m-ați întrebat dumneavoastră, cred că și-o asumă din păcate foarte mulți români și acum. Mulți se gândesc că țara e a nimănui. Sì, in effetti sulla prima parte di questa citazione, il paese che è stato nostro, non c'è molto da dire, però ritengo, credo, sono quasi sicura che la seconda parte del paese che non è più di nessuno la condividano purtroppo moltissimi romeni. Chiar numărul mare de emigranți pe care îi dă în acest moment România și din păcate acest ultim val al celor cu studii, cei pregătiți ca să... să zicem, să ajute mai mult la o altă Românie care să fie a cuiva și acest val și cu odată cu criza crește. Chiar acest număr mare de emigranți din ultima vreme dovedește ceea ce e un sentiment general în clipa aceasta în România, o nemulțumire față de clasa politică, o foarte adâncă nemulțumire față de clasa politică. E credo che il numero stesso molto elevato di emigranti dalla Romania e soprattutto di questa ultima ondata di emigranti che sono giovani con studi superiori che potrebbero avrebbero la possibilità, avrebbero le capacità di fare qualcosa in Romania, perché la Romania sia effettivamente di qualcuno, delle persone che ci vivono, direi che proprio queste cose danno un po' la misura del sentimento di insoddisfazione che condividono oggigiorno moltissimi romeni, che sono profondamente insoddisfatti della classe dirigente. viene raccontato il potere, quello che si vede del potere. Quello che si vede del potere sono i servizi spionistici e la polizia, ma la polizia che deve controllare, no, la situazione. E questo è raccontato in modo, come si può dire, succede molto spesso nel cinema migliore, non so, penso a un film di Joselliani, che è un regista georgiano, che quando raccontava queste cose era terribilmente stridente, faceva ridere e metteva una paura dell'anima proprio, perché raccontare la polizia è, voleva dire, i servizi segreti, voleva dire vedere il lato grottesco, un po' comico, del balletto insensato, di stupidità che queste persone sono in grado di tirar fuori, no, nel modo di leggere quello che succede, no, di vedere quello che forse c'è dietro, non c'è dietro, eccetera. E poi nello stesso tempo ovviamente di tremendamente tragico, perché poi queste persone finivano in galera, finivano ammazzate, finivano torturate, cioè c'era una no, il mondo in mano, il potere in mano a degli stupidi, no, degli stupidi terribili, e da questo nasce un effetto un po' comico e un po' estremamente spaventevole, insomma. Securitatea a fost foarte, foarte puternică, adică și probabil o rețea extrem de puternică. Sigur că ea, de fapt, era teoretic brațul partidului, Partidului Comunist. Certo, la Securitate è stata un'organizzazione estremamente potente in Romania, ed era ovviamente il braccio, diciamo, del partito. Dar în același timp, ea devine ea însăși un corp separat. Ma nello stesso tempo è diventata anche un corpo separato rispetto al Partito Comunista. Nu există același tip de securiști în anii 50 sau în anii 70-80. Anche il tipo di securista, quindi di ufficiale della Securitate, non era lo stesso negli anni 50 e negli anni 70-80. În anii 50 erau probabil, eu cred că cele mai îngrozitoare închisori și torturi au fost din tot estul în România comunistă. Credo che negli anni 50 le peggiori prigioni politiche, le peggiori torture siano state quelle della Romania. Și există foarte multă brutalitate și în cultură și sunt într-adevăr figuri odioase. În anii 50, început de anii 60. Quindi per tutti gli anni 50, inizio degli anni 60, si trattava di figure estremamente brutali, estremamente ignoranti. După anii 62-64, România a cunoscut o liberalizare. Dall'inizio degli anni 60 la Romania ha conosciuto un periodo di breve e relativa liberalizzazione. Și aceasta a continuat și cu prima parte a regimului Ceaușescu, care mai ales în Occident era foarte bine văzut. E questa è continuata anche sotto, diciamo, durante la prima parte del regime di Ceaușescu, che soprattutto in quegli anni era molto ben visto in Occidente. El a fost a avut vizite cu cele mai mari onoruri, niciun președinte al României n-a mai avut onorurile pe care le-a avut Ceaușescu la Casa Albă, a fost în trăsură cu regina Angliei, a primit titluri onorifice de la foarte importante universități și el și soția lui, care era quasi analfabetă. Ceaușescu in quegli anni ha fatto visite di Stato in cui è stato ricevuto con i massimi onori che nessun altro capo di Stato della Romania ha mai ricevuto dopo di lui. È stato ha passeggiato in carrozza con la regina d'Inghilterra, è stato ricevuto alla Casa Bianca, ha ricevuto innumerevoli titoli da diverse titoli onorifici da parte di diverse università, e così anche la moglie, che in realtà era praticamente analfabeta. Și în aceeași perioadă, serviciul de securitate, care sigur era și extern și intern, mai ales cel extern, a racolat sau a introdus și persoane mult mai cultivate. In quegli anni i servizi della Securitate, tanto esterni quanto interni, hanno reclutato anche persone molto più istruite rispetto al periodo precedente. Și așa că era o întâlnire, în același timp niciodată n-au fost pedepsiți cei care fuseseră criminalii cei mai duri, ba din când în când mai primeau o medalie la serbări oficiale, Nikolski, niște nume rămase odioase. E nello stesso tempo i criminali brutali del periodo precedente non sono mai stati puniti, ma anzi addirittura in alcune occasioni ufficiali particolari venivano ancora premiati con qualche medaglia, nomi che poi sono rimasti totalmente odiosi nella storia della Romania. Și eu am încercat în carte să arăt câteva generații de, deci sunt trei personaje din Securitate, dintre care unul sigur aparține complet trecutului și se vede că va fi expulzat și unul se va descurca foarte bine și aparține prezentului și este șef și unul este foarte tânăr și foarte cultivat și eu l-am văzut având carieră politică după 90. Nel romanzo io ho cercato di rappresentare tutte queste generazioni della polizia segreta, della Securitate, perché ci sono tre personaggi. C'è un personaggio che è il capitano Gherghina, che si vede che è quello che appartiene al passato e che si capisce nel romanzo che verrà presto gettato fuori dall'apparato che sta cambiando. C'è invece il colonnello Ispas, che è quello che appartiene al presente, che si vede che è una persona che sa cavarsela in tutte le situazioni, un personaggio che cade sempre in piedi. E poi c'è il luogotenente Matei, che invece io personalmente me lo sono immaginato, il giovane luogotenente Matei me lo sono immaginato fare una brillante carriera politica dopo l'89. Appunto la moglie di Manu Trajan, la protagonista femminile, è questa vecchia signora tedesca che ha vissuto il nazismo, ha vissuto la tragedia della guerra, ha vissuto la scomparsa dei suoi cari, ha vissuto, insomma, è una fortemente risentita nei confronti della storia, mentre il marito Trajan è un po' più saggio, un po' più distaccato, vede le cose con un pochino più di filosofia, come si dice volgarmente. E quindi questo rapporto di coppia tra questi due persone anziane, tutti e due dei vecchi in fondo, no? che in questo viaggio si punzecchiano in continuazione, perché mettono a confronto il loro atteggiamento nei confronti della storia. In realtà è questa la cosa che li distingue, insomma. E su questo forse qualcosa sarebbe bello sentire. Eu am avut imaginea aceasta, recunosc că m-am gândit văzând felul în care reacționează oamenii care au simțit ce înseamnă dictatura și cei care nu au trăit-o, așa cum nu au trăit-o nici Dinu, de fapt, pentru că sau în niciun caz nu trăise nici părțile cele mai, plecase la studii în 38, deci și nu a cunoscut într-adevăr dictatura, iar că e exilat nu simțea în același fel istoria. Nel rapporto tra Crista e Trajan, fra i due anziani coniugi, ho cercato un po' di mettere a confronto le posizioni di due persone su due fronti diversi, una che ha vissuto Crista veramente sotto una dittatura e Trajan che invece no, non l'ha vissuta direttamente la dittatura, come del resto neanche mio zio Dinu aveva mai vissuto, perché era andato all'estero per studi nel 1938. Per d'altra parte sigur în Crista am pus mai mult, să zicem, din mine, pentru că eu știam, adică puteam să înțeleg și ce înseamnă să te simți umilit și să te simți rușinat că tu trăiești un asemenea regim, îl suporți pasiv. Ovviamente io in Cristo ho messo molto di me stessa perché potevo comprendere benissimo cosa volesse dire vivere in un simile regime e vivere in questo stato di umiliazione e di vergogna perché lo accetti in maniera passiva. Și am mai avut ceva când am călătorit în Germania. Avusesem timp de mai multe decenii doar imaginea unei Germanii foarte vinovate, unei Germanii fasciste, unei Germanii care declanșase războiul și adusese atâta nenorocire. Așa fusese până când am călătorit prima dată în Germania. In più, io fino a quando non ho fatto per la prima volta un viaggio in Germania, avevo sempre avuto l'immagine di un paese colpevole, del paese che aveva scatenato la guerra, che aveva portato così tanti danni all'Europa. Pentru prima dată mi-am dat seama că și in Germania de fapt fuseseră vittime. Am văzut orașe întregi reconstruite, deci care fuseseră bombardate complet. E quando invece sono andata per la prima volta in Germania ho visto un paese che era stato anche un paese di vittime, con città distrutte. Și cred că nimeni nu este vinovat pentru ce au făcut. Nu ne naștem, nu plătim vina părinților, strămoșilor, vecinilor, ne naștem fiecare individual. Cel puțin comunismul ne făcea răspunzător pentru tot șirul de strămoși, eu nu cred în asta. In effetti io credo che ciascuno di noi non nasca in maniera individuale, non possiamo essere ciascuno di noi responsabile per quello che hanno fatto i nostri antenati, i nostri avi, i nostri vicini, i nostri amici. Il comunismo era questo quello che faceva, ci faceva sentire responsabili per quello che avevano fatto tutti gli altri prima di noi, quelli che facevano i nostri vicini, i nostri colleghi. Și atunci am simțit aceste sentimente amestecate, pe de o parte vinovăția și pe de o parte inocența unei persoane care ea personal nu a făcut nimic rău și care suportă o istorie prea grea. Per questo io ho sempre sentito questi due sentimenti contrastanti, da una parte la colpa per quello che stava succedendo, dall'altra tuttavia il sentimento di essere innocente, perché tutto sommato non ero che un individuo che faceva che portare il peso di una storia eccessivamente pesante. Digressioni, dei racconti nel romanzo, dei personaggi, delle storie, quello di Christian, il fratello, per esempio, un romanzo quasi a sé, è una parte del libro che ha una sua unità e una sua differenza. C'è il personaggio del ragazzo ventenne, Daniel, che è quello che si pone il problema di fronte a questo mitico parente arrivato dall'Italia e venerato dalla famiglia, si pone la grande domanda: essere o non essere un vecchio rimbambito, perché giudica questo signore proprio come uno già di un'altra generazione, essendo lui uno che ancora vive sotto Ceausescu, ma che ha altre ambizioni, altre visioni di quello che potrebbe essere il suo futuro. Ci sono molte altre cose, però questo ve lo dico soltanto come invito a leggere questo libro, che è effettivamente pieno di cose, estremamente stimolante e anche sotto certi aspetti anche molto gratificante, perché riscoprire questi legami tra i paesi, questi contatti tra culture diverse, insomma, io sono particolarmente felice, avendo conosciuto poco, ma l'ho conosciuto e ammirato molto, Dino Adamestiano, grandissimo archeologo italiano, perché era di nazionalità italiana, e di trovarmi qui adesso con sua nipote, grande scrittrice romena. Mi sembra un segno dei tempi particolarmente bello, il passato e il presente e il futuro forse promettono anche qualcosa di simpatico, di bello. Grazie. disponibile a firmare delle copie lì allo stand di Nottetempo, approfittatene, vale la pena.